GR Europa. Al Parlamento europeo stiamo lavorando per prevenire l'anonimato nei giochi d'azzardo online, contrastare i sistemi utilizzati dalle organizzazioni criminali, preservare l'integrità e l'immagine dello sport. Così l'europarlamentare Salvatore Iacolino, PPE Grande Sud, relatore permanente della Commissione speciale per la lotta contro la criminalità del Parlamento europeo. Si stima che l'ammontare delle scommesse illegali nel mondo sia di oltre 140 miliardi di euro l'anno. Solo in Italia il giro d'affari vale 10 miliardi di euro e coinvolge alcuni tra i più potenti clan mafiosi. Disoccupazione giovanile in Europa. Parlando al Parlamento europeo, il commissario all'educazione e alla gioventù Androulla Vassiliou parla di un dramma e ricorda una cifra complessiva di 26 milioni di disoccupati nel continente. Più di 2 giovani su 10 in Europa sono disoccupati. Ne parla oggi il commissario per l'educazione Androulla Vassiliou, perché tutto parte da lì, dai tagli alla formazione. It's tough to invest in all sorts of areas with public money at the moment because of the recession, the downturn. È dura investire nella scuola in un momento in cui gli stati devono fare i conti con la crisi, ma se non si investe in questo c'è il rischio di perdere un'intera generazione, lo ha detto il portavoce Dennis Abbott. This generation is not being really represented in the dialogues and it's not one of the stakeholders that would be present in the policy making. Questa generazione non è rappresentata in politica, poco a Bruxelles, poco negli stati membri, ma sarà il futuro dell'Europa. Gli ha fatto eco Zuzana Novakova del Centro Future Lab Europe. At the same time, this is the generation that is going to write the future of Europe. Il tasso di disoccupati fra gli under 25 sfiora il 60% in Grecia, è al 55% in Spagna, al 38% in Italia. Diversa lo scenario in Germania, dove i disoccupati fra i giovani sono appena l'8%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli 8 paesi più ricchi dell'UE sono contrari alla manovra aggiuntiva da 11 miliardi di euro necessaria, secondo la Commissione, per ripianare il bilancio 2012 e per pagare le fatture insolute. Questa manovra è considerata dal Parlamento dell'Unione condizione essenziale per aprire il negoziato sul bilancio 2014-2020. Nel Consiglio Affari Generali i ministri di Gran Bretagna, Olanda, Germania, Francia, Finlandia, Austria, Svezia e Danimarca hanno definito la cifra troppo alta e da verificare. Bene, con questo è tutto per GR Europa, che come sempre torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.